Noi chi siamo? Gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, le donne fredde mette negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gloria su tre fianchi.